Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Voi siete qui, di Matteo Caccia. Il mio tempo, negli ultimi 8 anni, l'ho trascorso in un'isola del Sud Pacifico, 2000 chilometri a nord di Auckland, da cui sono partita stamani per tornare a casa in Italia. Mi chiamo Emanuela Benetti, abito a Viareggio in Toscana, ho 61 anni, sono assistente sociale, mi occupo della mia famiglia e mi occupo di un breakfast di un mio amico. Ciao Matteo, questa pagina di vita la scrissi quel giorno quando ero all'Albion, un hotel, in attesa del volo per l'Italia. Un giorno che ricordo intenso di emozioni per i ricordi ancora freschi della vita degli ultimi anni che si confrontavano con i legami forti che avevo mantenuto con la mia famiglia in Italia. Ma avevo preso la mia decisione e nonostante il dolore dell'addio ai nuovi amici sapevo che la mia vita era in Italia e Niue era stato un viaggio durato 8 anni, un viaggio iniziato insieme a mio marito e terminato senza, un bellissimo viaggio nel tempo e nello spazio che continua qui in Italia. Sono le 16:08, buongiorno a tutti in diretta da Milano, questa è Radio 24, il programma si chiama Voi siete qui e oggi raccontiamo un'altra storia, come facciamo tutti i giorni, la storia di Emanuela oggi, e queste poche righe che vi ho letto erano la mail di accompagnamento che appunto erano unite al file del racconto. Non tutti lo fanno, alcuni mandano semplicemente la storia, è chiusa, è morta lì, altri invece allegano alcuni dei complimenti, altri semplicemente dei saluti, eccetera eccetera. Emanuela ha scritto queste poche righe per inquadrare la storia ed è una storia molto particolare, la storia di un ritorno, è la storia di una persona che parte, va in un luogo, devo dire, poi ne parleremo con lei, ho fatto un giro sul web, un posto incantevole, immaginate un luogo sperso in mezzo all'oceano Pacifico del Sud, fatto di colori incredibili, robe che ti sembra di vedere solo su Google quando metti isola desert island, sai, nei pomeriggi in cui piove, ci sono 2 gradi sotto zero, allora dici fammi guardare qualcosa di bello, desert island oppure atollo pacifico. Ecco, Niue, cercatela, scritto proprio Niue, N-I-U-E, è esattamente una di quelle isole, ma è un buco, no, perché il termine buco per un'isola non va bene, ma è minuscola ed è un posto incredibile. Ebbene, Emanuela da Viareggio ha preso ed è andata in mezzo al Pacifico, ci è rimasta per 8 anni. Questa, diciamo, è parte della sua vita. La storia però non racconta nemmeno quello, non racconta quegli 8 anni, di cui ovviamente le chiederò più tardi. Racconta di un momento ben preciso, che anche se non siete stati 8 anni a Niue, sicuramente avete vissuto. È il momento in cui si torna a casa. Sono quei 5 minuti che precedono la partenza di un aereo o quell'ora in attesa di un traghetto, ma anche solo se dovete prendere un autobus da Brescia per andare a Milano o da Milano per andare a Brescia e siete stati via qualche giorno, ripeto, non 8 anni. C'è un momento in cui se sei bravo tiri le fila, se non sei bravo semplicemente pensi sto tornando a casa, che può anche non essere un pensiero molto sviluppato, però quantomeno è un pensiero. Ecco, oggi parliamo di quel momento lì, del momento in cui stavi per tornare a casa e ti sei accorto che quella cosa stava succedendo. 349-238-6666, questa è la storia di Emanuela, vi dicevo, anche se sul profilo Facebook del programma che Voi siete qui, Radio 24, abbiamo chiesto altro, abbiamo fatto il giro opposto. Abbiamo chiesto quando vi è successo di essere partiti per un viaggio che doveva essere breve e non siete più tornati. Ed è successo, Giulia ci scrive, sono partita dalla Germania nel giugno del 2003 per stare a Venezia 5 mesi. 10 anni dopo sono ancora qui in Italia con marito, figlio e un secondo maschio in arrivo. 349-238-6666. Gabriele, agosto del 96. A Berlino l'estate era afosa, sembrava di essere a Roma e in Italia non ci tornai più. 349-238-6666. Eravate partiti per star via poco e non siete più tornati. Torniamo indietro però, torniamo all'inizio di questa puntata, torniamo a questa storia, la storia di Emanuela, dopo 8 anni via, sta per partire, sta per tornare in Italia. Le campane suonano da un'ora sul campanile della chiesa di St. Matthew, di rimpetto all'hotel Albion. L'Albion è un vecchio edificio che mostra fiero il suo secolo di vita ai nuovi palazzi dalle linee rigide che lo circondano nel centro di Auckland. È un tardo pomeriggio di metà gennaio, l'estate australe. I vetri della finestra sono chiusi. Il mio viaggio di 8 anni è stato a Niue. L'isola di Niue è un'isola, un atollo rialzato a 2000 km a nord di Auckland. È un'isola polinesiana che è un'isola a sé stante. Sono finita lì dopo una ricerca durata 3 viaggi nel Pacifico e dopo aver visitato diverse isole del Pacifico, tra cui la Nuova Zelanda, le isole Tonga, le Samoa, eccetera. Quest'isola in particolare ci è piaciuta. Do un'occhiata fuori domandandomi perché di quella lunga scampanata. Il cielo è plumbeo di nuvole dense che velocemente si rincorrono, lasciando spazio all'azzurro, e il sole riflette i suoi ultimi bagliori sugli specchi del grattacielo di fronte. La gente cammina sul marciapiede incurante, e solo sporadicamente qualcuno varca il portone di legno massello della grande chiesa in pietra grigia. Mi è piaciuta subito questa chiesa. Ha le linee gotiche e si alza maestosa in cima ad una delle tante colline su cui giace la città, circondata come vuole la tradizione da alberi e arbusti per fare della chiesa un'oasi di preghiera in mezzo all'asfalto. Il posto ha l'armonia delle cose in cui niente viene lasciato al caso, ma è preordinato, curato e organizzato nei minimi dettagli. Nemmeno il vento fresco del sud che improvvisamente si è levato a squassare le cime degli alberi sembra compromettere questa armonia, mentre le campane continuano instancabili il loro ritmo ripetuto all'infinito. Il loro martellare copre o attenua il rombo dei motori delle auto che sfrecciano giù nella strada, facendo tremare i vetri, e sembrano volere ricordare a più gente possibile che esiste anche una vita spirituale da curare in questo mondo dominato dal tempo. Il mio di tempo negli ultimi 8 anni l'ho trascorso in un'isola del Sud Pacifico, 2000 km a nord di Auckland, da cui sono partita stamani per tornare a casa, in Italia. Mi passano davanti agli occhi gli anni trascorsi su quel granello di terra circondato dall'oceano, le gioie, le lotte e le delusioni. Rivedo le albe rosa, gli azzurri intensi, il blu degli abissi marini, i silenzi, le stellate incredibili. Scorci mozzafiato di selvaggia bellezza, acqua cristallina di una purezza che non ha eguali, che si colora di turchese nelle 1000 piscine naturali della barriera corallina, degli acquari tropicali, le piccole spiagge di corallo rosa, canoe di pescatori che si stagliano nere su di un mare luccicante in un tramonto infuocato, piscine d'acqua dolce sullo sfondo di spaccature di roccia dalle pareti ornate di felci, chilometri di sentieri in una rigogliosa foresta color smeraldo dove il silenzio è rotto solo dal verso dei tuachi, candidi uccelli dalla coda lunga che fanno il nido sui rami degli alberi più alti. I villaggi sornioni, il grande prato in mezzo alle case, che si anima di voci e di giochi al crepuscolo. E poi le pigre domeniche assolate, da cui si levano solo i canti della preghiera. Le donne vestite di bianco. Il mercato brulicante di gente, di merci, di odori, di colori sgargianti degli abiti. Le stuoie, i cappelli, i ventagli, le collane di fiori. E la mancanza di fretta. Un'altra dimensione del tempo. Lo scorrere della vita scandita dai ritmi naturali. Momenti felici ne ho avuti tanti, tantissimi, sono legati alla comunità in cui vivevo, e riguardano la vita di società dell'isola, le parate, i momenti alla chiesa dopo la messa in cui tutti si riuniscono e ognuno porta qualcosa da mangiare per fare festa, perché la festa, il fare festa è uno dei momenti più felici dell'isola. Una piccola comunità di nemmeno 2000 persone distribuite in 14 villaggi sulla costa. Tutti si conoscono e si salutano per strada, e lo stesso trattamento è riservato all'ospite che è il benvenuto. Gente genuina, calda e accogliente, che mi ha accettata e mi ha fatto sentire a casa. E allora, a quale casa sto tornando? Il viaggio mi riporta in Italia, verso nuove sfide. A costruire un nuovo mondo di affetti e di rapporti e di nuove ricerche. Tornare a casa è quasi uno stato della mente. Ed è uno di quei luoghi del pensiero in cui io probabilmente torno molto più spesso di quanto non parta. Preparare i bagagli, raccogliere le cose che si sono accumulate in un posto lontano da casa nostra per tornare dove siamo nati e dove siamo cresciuti, contiene sempre un briciolo di gioia, anche se a volte è sopita dal dispiacere di mollare quella vita. Io non ho mai vissuto lunghi periodi lontani dal nostro paese. ho visto l'Italia da lontano sempre per periodi non più lunghi di 2-3 mesi. Quindi non so cosa significhi stare 8 anni in un posto remoto come quello in cui è stata Emanuela, però conosco come tutti che cosa sia quel momento di pausa tra un treno e l'altro prima di salire su un aereo o su un traghetto, o ancora l'attesa al benzinaio, semplicemente mentre stai facendo il pieno e hai 5 minuti per realizzare che stai partendo per tornare a casa. Qualunque cosa significhi la casa, qualsiasi sia il sentimento che proviamo verso casa, di amore o di avversione, è comunque sempre casa nostra. Non sono mai stato bravo a fare dei bilanci, no? A tirare le fila, a mettermi lì e pensare a come è stato quel tempo lontano da casa, guardandolo da lontano e dandogli un giudizio finale. Quando mi chiedono com'è andato un viaggio o un lavoro lontano, rispondo sempre con un bene, un po' di circostanza, proprio perché non ho quel dono di scegliere gli elementi principali di un periodo, metterli insieme e dare una valutazione globale. Insomma, sarei un pessimo editorialista della mia vita, per capirci. Emanuela invece è molto brava a farlo, al punto che riusciamo quasi a vedere tutta per intero la sua vita dall'altra parte del mondo. Eppure anche lei, nonostante la nostalgia che già prova in quel momento mentre sta partendo, racconta subito come in fondo abbia voglia di tornare a casa. Io conoscevo una persona qualche anno fa, una persona che non sento più da un po' di tempo. Era di Genova, ma era a Milano per seguire un corso di teatro, per l'esattezza. Ed era un corso a cui teneva moltissimo, per il quale aveva combattuto e che sperava potesse aiutarlo a fare quel mestiere lì nella vita, fare l'attore. Insomma, era felice di essere lì e di frequentare quella scuola. Genova però gli mancava in un modo quasi destabilizzante. Lui tornava a casa sempre, ogni venerdì sera. Aveva gli amici, la famiglia, aveva casa. E Genova e Milano non sono così lontane, ma lui proprio non riusciva a pensare di vivere a Milano. Per lui si trattava solo di una cosa temporanea. Anche se ci stava 5 giorni la settimana per 2 anni, era come se sempre se fosse uscito di casa da Genova per comprare il pane e fosse pronto a tornarci dopo poche ore. Un giorno mi raccontò, senza imbarazzo, che in inverno, durante la settimana, quando magari il lunedì o il martedì sera gli sembrava che mancassero ancora troppi giorni alla fine settimana, al venerdì quando sarebbe tornato a casa, lui faceva finta di tornare. La simulazione del venerdì la chiamava. Prendeva la sua sacca, ci metteva dentro quelle poche cose che aveva con sé, saliva in metropolitana e andava in stazione centrale. Lì si sedeva a un bar o passava mezz'ora nella libreria della stazione, proprio come se stesse aspettando un treno per Genova. Poi risaliva sulla metro, tornava a casa e andava a dormire. A me sembrava una cosa da pazzi, l'ho preso in giro per mesi con questa storia. Anzi, una volta gli chiesi addirittura di poter andare con lui, ma lui mi disse di no. Poi, negli anni, il racconto di Emanuela lo conferma, ho capito che quegli attimi prima di tornare a casa sono una bella torretta di avvistamento per buttare l'occhio su come stanno le cose dietro, davanti e intorno a noi. Si parla del momento in cui si prende e si torna, ma anche della volta in cui hai detto guarda, parto, sto via una settimana e poi invece non siete più tornati. Federico, vai a fare il responsabile di un oratorio per le attività estive, a metà luglio finisci, mi disse la diocesi lo scorso maggio. L'estate è finita ma sono ancora qui per fermarmi tutto l'anno e anche di più. 349-238-6666. Però devo dire che si è creato sia sul profilo Facebook, anche su quello Twitter, vedevo che tutava Margherita, e anche tra gli SMS un po' di curiosità, indubbiamente, per una persona, perché non ne conosci tante di persone che pigliano, conosci delle persone che prendono e vanno a lavorare fuori, vanno, che so, Stati Uniti, Inghilterra, Francia, qualcuno adesso comincia, qualcuno è in Cina, in Oriente, però su un'isola nel cuore del sud del Pacifico io sinceramente non ne conosco. Pronto Emanuela? Buon pomeriggio, salve. Come stai? Matteo. Bene, grazie. Dove ti trovi in questo momento? Sono a casa. A Viareggio, giusto? Sì, sì, sì. Perché tu sei un assistente sociale, dicevi? Sì, ero, ho lavorato in tono, però adesso ho lasciato da tanto tempo. Cioè, nel senso, tante cose. Nell'anima sei un assistente sociale, però sei in pensione? diciamo così. Vabbè, ok, non lo fai più, va bene, va bene. Non lavoro più quei 1000 lavori che ho fatto in questi ultimi tempi, da quando sono tornata a casa, mi occupo così della mia famiglia. Senti, Emanuela, ricostruiamo, sì. Ti dispiace un attimo, proprio la tempistica. Sappiamo che sono 8 anni, ma non sappiamo in quale parte della tua vita sono stati. Sono stati da quando avevo 40 anni fino ai 48. Ai 48, quindi ormai sono più di 10 anni fa, giusto? Più di 10 anni fa. E te l'avranno già fatta questa domanda, com'è che una coppia, giusto, perché sei partita insieme, sì, a tuo marito, siete partiti insieme, com'è che una coppia decide da Viareggio, piglia e si trova a Niue, perdonami, ho invertito le vocali, come mai? È una domanda a cui ho risposto tante volte, e praticamente insomma la risposta è tutta personale. E quindi, come dire, e quindi non te la do. No, come no. Il bisogno proprio di cercare nuovi orizzonti, direi, in generale. Ero sposata con un marito che era una persona avventurosa e questo mi ha attratta, senz'altro. Mm-hmm. E tutto questo ha fatto in modo che facessimo un paio di viaggi nel Sud Pacifico. E quindi questo viaggio, questa permanenza a Niue non è stata un caso, è stata costruita nel tempo. Avevamo uno sponsor, sapevamo dove andavamo, ma prima di arrivarci ci sono stati 2 viaggi. Ma uno sponsor in che senso? Cioè, c'era qualcuno che finanziava il vostro viaggio? No. Lo sponsor di Niue è una persona locale che, diciamo, si fa garante. Cioè che è come se ti chiamasse a lavorare, giusto? Sì, ma non c'era nessun lavoro, il lavoro ce lo siamo dovuti costruire da noi. E che cosa vi siete costruiti, cosa facevate? Dunque, prima si pensava di affittare della terra per coltivare lime e passion fruit, sì. Poi però invece la difficoltà dell'affitto della terra, siccome appartiene alle famiglie in questi latitudini, e quindi è un po' complicato, diciamo così, quindi ci ha fatto lasciare questo obiettivo. E mio marito si è messo a fare il meccanico, avevamo un auto noleggio, e io, siccome siamo italiani, ci ho vissuto con l'essere italiano, abbiamo messo su un piccolo ristorante. E tutto è durato 8 anni? Il tutto sì, con tante difficoltà all'inizio. Però sì, alla io, fine, tra l'altro, io davvero inviterei le persone che sono davanti a uno schermo, se c'è un mappamondo è difficile, più facile immaginarsi Google Map, a scrivere Niue Island, perché, cioè, dire che è nel Sud Pacifico è restrittivo, perché è proprio in mezzo, cioè, per capirci, a sinistra c'è la Nuova Zelanda, l'Australia, un triangolo fra le Samoa, Tonga e le Cook. Ok, eccolo qua, American Samoa, giusto, Tonga. Nel mezzo c'è un atollo di alza, è un'isola nazione, eh? È un'isola, una nazione a tutti gli effetti, è associata con quindi la Nuova Zelanda. Quindi batte moneta? No. Okay. Non batte moneta, e i cittadini sono cittadini neozelandesi, come lo sono anch'io. Tu hai preso la cittadinanza alla fine? Dopo diversi anni me l'hanno data, confesso. Com'erano i ritmi di vita? Visto che dici che c'è una vita in cui che è scandita molto dai tempi della natura, e questo non lo puoi immaginare essendo in mezzo all'oceano, ma cioè, che ora vi alzavate, che ora andavate a dormire, quanto lavoravate? Si lavora anche lì, No, lo immagino. Io quando avevo il ristorante, alle 8 ero nel ristorante, andavo a fare la spesa. Ah, vabbè, quindi tempi normali, insomma. La pasta della pizza, la pasta del pane, tutte queste cose. Cioè, quindi in realtà i tempi di lavoro sono quelli, insomma, si lavora durante il giorno, dalla mattina alla sera. Però se c'è un battesimo, se c'è un lutto, tutta l'isola si ferma. Se c'è un evento particolare, un matrimonio, l'isola si ferma e partecipa con la famiglia, ad esempio, al lutto, al battesimo. Naturalmente si cerca di farli durante il fine settimana. Certo. L'isola, poi ti devo salutare, purtroppo, Emanuela. L'isola, 2000 persone ci abitano su quest'isola in mezzo al Pacifico. Quindi è come un'unica famiglia. Cioè, vi conoscete tutti? Sì, in pratica sì. Ci sei tornata adesso in questi 10 anni? Come detto? Ci sei mai tornata da quando sei partita? No. Tornerò. Ci tornerai. Mi sembra la storia di Robert Louis Stevenson che piglia, va a curarsi perché aveva, cosa aveva, la tisi, stava male, soffriva ai polmoni, andò da quelle parti e poi ci rimase sull'isola di Samoa e ci visse fino alla fine. Ti auguro un in bocca al lupo per tutto, Emanuela, e grazie per grazie, la tua storia. Freddy. A presto. Grazie. Ciao, grazie. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Voi siete qui. Voi siete voi qui. Siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. È sorridente e serena Emanuela nella foto che ci ha mandato, come tutti gli altri ascoltatori che raccontiamo in diretta, che trovate sul sito di Radio24, la nostra pagina. Voi siete qui. Ha alle spalle un prato verde come neanche il prato di San Siro, che già quello di San Siro fa abbastanza schifo. Quindi immaginatevi un prato bellissimo alle sue spalle, e voglio immaginarla là, vicino alla Nuova Zelanda, in una giornata di sole. Lei ha su un maglione, insomma fa un po' freddo, ha su un maglione, degli occhiali da sole e uno zaino in spalla, i capelli corti, un po' brizzolati, però insomma sembra molto serena. A quale casa sto tornando? Questo viaggio mi riporta in Italia, verso nuove sfide e difficili verifiche, a costruire un nuovo microcosmo di affetti e di rapporti, verso una nuova ricerca. Ciao Matteo, noi siamo arrivati in Sardegna, qui ci siamo fatti avvolgere dalla bellezza che non ha eguali, altro che Polinesia e Maldive. Se mi dai la tua mail ti mando una foto, la mail è sempre quella: voi siete qui, @radio24.it. Quando arrivi da qui devi scendere dalla metropolitana, per forza, Claudia ed Emilio. Credo sia metaforico, giusto? Cioè non è che c'è una metropolitana Genova Olbia, tipo Genova Cagliari. 349-238-6666. Ci sono due storie che mi fanno venire in mente il racconto di Emanuela. Una, appunto, la storia di Stevenson, ne parlavo prima con Tiziana. Robert Louis Stevenson, la sua salute migliorò perché si trasferisce in un'isola del Sud Pacifico, in modo così notevole che decide di stabilirsi nel Sud Pacifico, e dopo un'ulteriore esplorazione dei vari arcipelaghi e un soggiorno di alcuni mesi a Honolulu, quindi Hawaii in realtà, stabilì la sua dimora a Upolu, la principale delle isole Samoa, dove visse fino al 1890, giorno della sua morte. Sarà che rileggendo L'Isola del Tesoro uno si fa venire strane idee e poi scopre che quello ci viveva. Una è la storia di Stevenson, l'altra invece è la storia di questa ragazzina che era naufragata con la barca, con una nave, con un veliero inglese, e si era trovata in Australia. Questa ragazzina era un cartone animato e si chiamava Flo, la piccola Robinson. Paolino, mi togli la base un secondo, per piacere. Margherita Hina ci guarda come se fossimo dei pazzi, perché credo che sta roba qua, se non sei tra gli anni 70 e gli anni 80, non l'hai vista. C'era tutta la famiglia libera in questi luoghi, l'Australia, insomma, mi ricordo sta terra rossa, sti deserti. Roberto Scaltriti, tu te la ricordi Flo, la piccola Robinson? Niente, tu sei dell'80? 84. Devi essere prima degli anni 80. 349-238-6666. È arrivata una mail a proposito di Australia, a proposito di momenti della partenza e del ritorno. Tempo fa mi è arrivata una mail ad agosto che c'entrava nulla con questa storia. Me la mandava un prete che dice: ciao, sono Paolo, 42 anni, prete a Mogliano Veneto, diocesi di Treviso. Sono prete da 16 anni e in questi anni sono tante le persone, giovani e meno, che ho avuto l'occasione di conoscere. Ti scrivo perché ieri in Facebook uno dei ragazzi che ho conosciuto a Treviso un po' di anni fa, quindi un ragazzo che evidentemente era nel suo oratorio, nella sua diocesi, poco più che ventenne, ha lasciato un messaggio che mi ha colpito e mi ha fatto pensare. Si chiama Nicolò. 6 mesi fa Nicolò è partito per l'Australia e ieri, poco prima di salire sull'aereo per tornare in Italia, ha deciso di rimanere lì. Mi colpisce il suo coraggio e soprattutto il cambiamento che sta vivendo. Anni fa non avrei puntato su di lui un centesimo e invece, comunque vada la sua avventura, sono felice di essermi sbagliato. Quindi noi non conosciamo Paolo che ce l'ha mandata, non conosciamo Nicolò, ma sappiamo che Nicolò si è trovato in quel momento lì, praticamente all'aeroporto, pronto per tornare in Italia, e ha fatto una scelta diversa da tutte quelle che abbiamo citato oggi. Sono partito 6 mesi fa. Ho lasciato ciò che di più caro avevo. Ho preso un volo per l'Australia da solo, con la voglia di intraprendere una nuova avventura. È stata una scelta dura, che fino ad oggi ha ripagato. Ho vissuto da solo per 5 mesi. Me la sono cavata. Ho trovato un lavoro, ho guadagnato dei soldi. Ho conosciuto persone indimenticabili da tutte le parti del mondo. Ho capito quanto si possa essere felici senza troppe comodità. Ho fatto molte scelte. Sono partito per la Malesia. Ho viaggiato per tutta l'Asia, da sud a nord. Ho preso aerei, treni, bus, barche. Mi sono mosso nelle metropolitane più grandi e affollate del mondo. Tutto solo con le mie forze. È stato fantastico. Mi ha fatto capire quante cose puoi fare se davvero lo vuoi. E ora, 6 mesi dopo, sono qui all'aeroporto di Sydney con un biglietto pagato per l'Italia. Consapevole di avere perso l'amore della mia vita, la possibilità di entrare all'università e ciò che il mio paese ha da offrire. Porgo le spalle all'aeroporto, lasciando che quell'aereo parta senza di me. Dentro di me sono sicuro che sia la scelta giusta. Sento che questa esperienza mi sta cambiando veramente. Per questo non è ancora il momento di tornare. I am not known another one size when I make ties, ties, ties, ties. Sloan Robinson è una bambina di 9 anni che vive a Berna con la famiglia, composta dal padre Ernst, dalla madre Anna, dal fratello maggiore Franz e da quello più piccolo Jack. In casa con la famiglia Robinson vive anche Mary, la giovane governante. La storia della piccola Flo è tratta dal romanzo Swiss Family Robinson di John David Weiss, o Weiss, credo che sia tedesco, che a sua volta è liberamente ispirato al romanzo di Robinson Crusoe di Daniel Defoe. La serie animata fa parte del progetto World Masterpiece Theater della Nippon Animation. È andata in onda in Italia su Rete 4 per la prima volta il 15 novembre del 1982, quindi avevamo io 7 anni, ed è durata dall'82 al non c'è scritto, all'85, quindi giusto quei 4 anni lì, e poi è scomparsa. Qualcuno si ricorda molto bene della piccola Flo. 349-238-6666, continuano ad arrivare i messaggi in cui si dice che partire senza fare programmi è meglio, però noi non stiamo parlando di quello. È arrivato invece un messaggio sul profilo Facebook di Julieta Devedia, che non è Julieta quella che già abbiamo sentito un'altra volta, perché si chiama in un altro modo. Non so perché capito sempre nella puntata giusta, scrive Julieta. In realtà non è che capiti nella puntata giusta, è che qualsiasi storia un pochettino ci appartiene, in un modo o nell'altro è un pezzo che ci si attacca addosso. Mi commuovo sempre, eccetera, eccetera. Tra 15 giorni, scrive Julietta, torno a casa in Argentina dopo 11 meravigliosi anni in Italia. In Italia, gioia e melancolia, melancolia, direi, tutto insieme. Vi abbraccio, Julietta. Julietta, noi abbracciamo te a questo punto, che non sappiamo cosa facevi in Italia, non sappiamo cosa hai fatto e non sappiamo che cosa torni a fare. Poi ho detto io Argentina, non so perché, ma non sono sicuro che tu sia argentina. Mi è venuto così forse perché l'altra Julietta lo è. E ciò nonostante, noi ti facciamo i migliori in bocca al lupo e siamo contenti che tu sia capitata per caso da queste parti. Ma guarda che comunque ovunque tu vada, Argentina, Uruguay, Perù, ovunque tu torni a casa tua, anche là puoi ascoltarti i podcast del programma. Se proprio non riesci a fare a meno, capiti sul podcast di Radio 24, ti ascolti la puntata, oppure tramite iTunes. E abbiamo finito anche oggi. Io ringrazio Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina, ringrazio soprattutto Manuela che è tornata in Italia. La storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Luciano Barbato, la storia di domani è la mia e parla di un episodio che ha cambiato la mia vita. Questa è la mia storia ed io sono qui.